Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Siamo sempre qua, anche nel giorno di festa, anche il primo novembre. Per informarvi su questa giornata economico-finanziaria, anche sulle cose insomma che girano in queste ore, per fare anche qualche approfondimento in questa giornata dove le notizie sono un po' più rade naturalmente, e magari abbiamo la possibilità di entrare su qualche altro argomento. Il numero per intervenire in diretta è sempre il 349-238-6666. Partiremo oggi, visto che già siete caldi perché ne ha parlato Oscar Giannino, partiremo dalle vicende di Alitalia. C'è già chi scherza, ho visto su Twitter una delle battute più gettonate, Aeroflot, no? L'ipotesi che Aeroflot entri in Alitalia, naturalmente a questo punto da quel che ci appare è quasi una boutade, però cercheremo di fare di nuovo il punto su quel che sta succedendo per quanto riguarda l'ex compagnia di bandiere. Lo faremo come sempre con Gianni Dragoni, che è la persona che segue queste vicende per il Sole 24 Ore ormai da molto tempo. Naturalmente parleremo di mercati, come ovvio che sia e come facciamo sempre, perché oggi le borse sono aperte. FTSE MIB meno 0,74%, FTSE All Share meno 0,67%. Parigi cede mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,22%, a ridosso della parità più o meno l'America, più 0,07% il Dow Jones, meno 0,3% il Nasdaq, e lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,12%. Parleremo di mercati e insomma vi avevo detto nei giorni scorsi che è un tema sul quale sarei tornato, ed è questo. Nelle settimane scorse il governatore della Fed di Dallas aveva detto: guardate, io vedo segnali dalle nostre parti che stia ripartendo una bolla immobiliare. I dati di ieri che sono arrivati dall'indice che misura i prezzi delle abitazioni nelle 20 principali aree metropolitane americane ha fatto segnare un rialzo del 12,8% rispetto all'anno scorso. Ci sono picchi addirittura del 40% in alcune città. Allora, vogliamo capire, visto che le conseguenze, quello che stiamo pagando adesso, deriva anche da i problemi del mercato immobiliare americano, c'è da capire che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, senza considerare che segnali di bolla ci sono anche da altre parti. Da questo punto di vista, la Gran Bretagna, anche se viene continuamente smentito, e l'Olanda, dove i prezzi stanno calando visibilmente. Questo sarà uno dei temi di approfondimento insieme al tema dell'economia europea. Ora, attendevamo per questa settimana e non è arrivata la famosa sentenza della Corte Costituzionale tedesca, vi ricordate? Abbiamo parlato molto, abbiamo detto ci sono due snodi essenziali. Le elezioni tedesche, per quanto riguarda il comportamento della Germania, le elezioni tedesche, e vabbè, perché insomma il pensiero da questo punto di vista era parallelo, no, in merito al comportamento rispetto all'Europa, ma l'elemento più importante in realtà sarà la decisione della Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe sulla legittimità delle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea. Si sostiene che la BCE abbia oltrepassato il suo mandato, e quindi questo è un elemento centrale naturalmente anche per i mercati e per l'andamento, se volete, dei titoli di Stato. E poi ci occuperemo di tasse. Beh, insomma, come facciamo a non occuparcene dopo i dati che ha fornito oggi Confcommercio, che ha fatto i suoi calcoli, ha fatto i suoi studi e sostiene che con la TARI, che è la nuova tariffa sui rifiuti, l'ennesimo acronimo, non ne possiamo più, però cioè, la nuova TARI, l'aumento medio dei costi sarà del 290% nel 2014, con dei picchi per un bar oltre il 300%, per un ristorante il 480%, si arriva ad oltre il 600% per l'ortofrutta e il 680% per le discoteche. Beccatevi questo. Ne parleremo con Confcommercio, ne parleremo anche con un collega del Sole 24 Ore che naturalmente segue queste cose. Come primo atto, come sempre, le notizie in breve di oggi. Veniamo innanzitutto, partiamo come sempre dalle materie prime, l'oro a 1.307 dollari l'oncia, in calo dell'1,8%. Petrolio WTI con consegna dicembre meno 1,51%, 94,9 dollari al barile, e Brent meno 1,88 a 106,7 dollari al barile. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli analisti hanno tagliato le stime del PIL per il quarto trimestre, un più 2%. Cioè crescerà del 2% negli ultimi tre mesi dell'anno, contro il 2,4 stimato in precedenza. E questo naturalmente anche a causa del cosiddetto shutdown. Ancora una banca nel mirino delle autorità, in questo caso banca americana, autorità americane, parliamo di Citigroup nell'ambito delle indagini sulla manipolazione dei tassi di cambio. La banca si apprende, ha ricevuto la richiesta di informazioni e sta cooperando nelle indagini. Secondo quanto riferisce la stessa Citigroup in una nota, le agenzie governative negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni stanno conducendo indagini sugli scambi sui mercati, appunto, dei tassi di cambio. Altra banca, altra indagine, JP Morgan. In parte collegate anche a queste, o quantomeno, insomma, ci sono anche elementi di questa indagine sul trading, sul mercato dei cambi. In questo caso si parla delle indagini sulle pratiche di assunzione di JP Morgan. Le autorità fuori dagli Stati Uniti stanno indagando sull'assunzione di ex dipendenti a Hong Kong e alle connessioni di questi con clienti della banca nell'area. Nel frattempo Barclays e Royal Bank of Scotland hanno sospeso alcuni trader con l'escalation di queste indagini sulla potenziale manipolazione di un mercato da 5.000 miliardi di dollari al giorno. Royal Bank of Scotland, a proposito, ha varato una cosiddetta bad bank interna, una cattiva banca, per tradurla brutalmente, insomma, no? È quella nella quale farà confluire le sofferenze e i crediti incagliati per 38,3 miliardi di sterline. Decisione presa sotto il pressing del governo di Londra, che è l'azionista di stramaggioranza con l'81%. Siamo all'Europa e poi brevemente all'Europa, non ci sono molte notizie oggi, ma ce n'è una dalla Grecia che è interessante, perché i rendimenti dei titoli decennali greci sono scesi sotto l'8% per la prima volta dal giugno 2010. L'Italia. Allora, lo spread tra BTP e Bund è sceso sotto quota 240 punti base, il rendimento del decennale italiano è il 4,08%, livello più basso da fine maggio. Spread, lo ricordiamo sempre, è la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, in questo caso a 10 anni. Il divario tra i titoli di Spagna e Germania si riduce anche quello a 230 punti base. Un calo dei tassi che riflette l'attesa di un taglio del costo del denaro da parte della BCE. Questo in seguito naturalmente ai dati sull'inflazione che sono arrivati ieri, insomma già ve l'accennavamo, l'inflazione sia quella italiana sia quella europea sono ferme ad un più 0,7% in ottobre. Come sapete, il target della BCE è un contenimento, ormai lo sapete perché insomma siamo stati ossessionati da questa vicenda. Il target per la BCE è di un 2% di inflazione, contenimento dell'inflazione entro il 2%, e quindi insomma, qualcuno pensa che a un certo punto Francoforte debba tagliare. Beh, i dati di Confcommercio ve li dicevamo, però ve li ripeto perché poi li riprendiamo alle 18, però fanno veramente impressione. Con la Tari, la nuova tariffa sui rifiuti, l'aumento medio dei costi nel 2014 sarà di circa il 300%. Si arriva a dei picchi incredibili per il settore ortofrutta, più 650%, per le discoteche più 680%. Ci sono dei dati della DUSBEF, devo essere franco, io insomma ve li do, prendete sempre i dati delle associazioni dei consumatori per quello che sono, insomma naturalmente, spesso non hanno degli uffici studi strutturati, però insomma, magari qualche indicazione c'è. È crollata la capacità di spesa delle famiglie, secondo Adusbef, il calo top in Europa nel decennio 2001-2012, calo in Italia del 16,8%, anche più della Grecia. E ora veniamo al primo tema di questa giornata. Come già si diceva, siete già caldi perché ne ha parlato Oscar Giannino. Noi ci occupiamo adesso delle vicende di Alitalia. Allora, le tasse sono brutte, queste sul questi calcoli di Confcommercio, poi naturalmente anche là bisognerà andare a vedere singoli luoghi, singole città, per carità di Dio, ma addirittura mi scrivete al 349-238-6666, nazismo impositivo. Adesso, è un po' fortina, nazismo impositivo. Non so, magari invece qualcuno è d'accordo, per carità. Chiedete ancora una volta che fine ha fatto Sebastiano Barisoni, dovrebbe tornare la settimana prossima se tutto va bene. Fatto male ad una gamba e indegnamente l'ho sostituito per qualche giorno. Air France si diceva... Ci sono innanzitutto le parole del ministro Maurizio Lupi, ministro dei trasporti e infrastrutture. Meglio uscire al più presto dall'equivoco, dice, intervistato da Messaggero e Corriere della Sera. Se i francesi non vogliono più partecipare all'avventura, sarà compito del governo avviare la ricerca del nuovo partner. E dice, non c'è aiuto di Stato, l'abbiamo scritto in risposta a Bruxelles. Stiamo svolgendo la nostra funzione strategica. Gianni Dragoni, del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Bentornato. Ma perché dovrebbe essere compito del governo trovare un nuovo partner per un'azienda privata? Credo che Lupi in particolare parli un po' a vanvera, perché in effetti... sta cercando di trascinare in politica quello che è un problema di un'azienda privata che svolge un servizio pubblico, anche se c'è una concorrenza, quindi è improprio. In realtà il governo si è già interessato quando Letta ha gestito direttamente una serie di incontri a Palazzo Chigi, sfociati, era il 10 ottobre, sembrava avessero trovato un accordo, un salvataggio, è sfociato nel dire, interverranno le Poste con 75 milioni di euro. Poi la questione si è complicata perché Air France sta resistendo, pone delle condizioni per partecipare all'aumento di capitale e tutti sanno che se si sfila Air France l'Italia sarebbe senza partner, quindi sarebbe in difficoltà, ecco perché, però rimane effettivamente sorprendente che il governo, almeno alcuni componenti del governo, mostrino questo attivismo, almeno a parole. Allora Gianni, questa storia di Aeroflot, o come qualcuno ha scritto su Twitter, Aeroflop, è una buttade, non è vera? Ma France gioca fino all'ultimo una trattativa in cui non fa capire le sue carte quali saranno, la decisione sarà presa in base se ci saranno delle risposte alle richieste, che sono appunto quella di una, cioè praticamente la France non vorrebbe caricarsi il debito che l'Italia ha, poi si vedrà a metà novembre, quando scadrebbe, ma è prorogabile il termine dell'aumento di capitale, se in mancanza di risposte sufficienti, adeguate, possa fare invece ugualmente la ricapitalizzazione o una parte sola. È difficile in questo invece che possano trovare un altro partner alternativo, certo non è una cosa che non si può fare in poco tempo e poi non è solo un partner. In realtà Gianni, colloqui con i russi ci saranno o no? Ma in realtà i colloqui ci possono essere. Allora, in realtà, benché ci sia un'agenzia che oggi dice che vanno a Mosca, dall'Italia dicono che in realtà non è affatto una visita ad alto livello e che a volte ci sono anche dei contatti tenuti con delle altre compagnie con cui tra l'altro ci sono degli accordi commerciali che molte compagnie hanno con altre, Aeroflot fa parte dello stesso gruppo SkyTeam con Air France come l'Italia, quindi alla domanda dovrei dirti forse più ni che no. Ma qualora anche mesi fa si è parlato di Aeroflot, si è parlato del possibile interessamento di Etihad degli Emirati Arabi Uniti, poi non abbiamo visto nulla di tutto questo, perché diciamo a un certo punto chi è interessato deve parlare con degli argomenti concreti, no? Disponibilità a mettere soldi o trattative, quindi ci sono forse delle possibilità alternative che richiedono però tempi lunghi, e l'Italia invece tempi lunghi non se li può permettere, perché anche se ha appena incassato 130 milioni come anticipo da alcuni soci e banche dell'aumento di capitale, non ha il carburante per andare avanti molti mesi. Allora ci scrive Luigi via SMS al 349-238-6666, che evidentemente non è un ascoltatore costante di questa trasmissione. Allora dice: l'assassino di Alitalia è Berlusconi, aspetto sempre che lo diciate, siete dei vili. Insomma, a parte che Gianni, Alitalia ha molti assassini, direi, tra questi anche l'ex presidente del Consiglio. Abbiamo detto e anche scritto varie volte, anche oggi, se per esempio questo ascoltatore ha occasione di leggere anche il Sole 24 Ore, lo troverebbe, che l'operazione del 2008, se partiamo da lì, che ha portato alla nascita di questa compagnia privata, la CAI, è nata da quello che io considero un errore, cioè c'è un'offerta di Air France per comprare tutta l'Alitalia con tutti i debiti e quasi tutti i dipendenti, ma fu bloccata da Berlusconi e per poi diciamo far nascere una compagnia senza debiti. I debiti sono rimasti sui contribuenti, sulla collettività, quindi e poi è arrivata la compagnia appunto CAI dei privati, dei capitani coraggiosi. Quindi non mi pare una novità questa che Berlusconi ha certamente in quel momento commesso un errore a danno sia dell'Alitalia sia della collettività. Poi in precedenza c'erano state tutte gestioni negative quando era pubblica la compagnia ed era arrivata praticamente al collasso. E poi la nuova compagnia privata, la CAI, appunto dal 2008 a oggi, ha di nuovo perso tutto il capitale e quindi di nuovo al collasso, di nuovo al fallimento. Gianni, ieri abbiamo avuto ospite il professor Ponti, che insegna al Politecnico di Milano, si occupa di trasporto ormai da molti anni e, insomma, ragionando un po', faceva una battuta, dice, insomma, se questi di Air France arrivano a darci 2 euro, dobbiamo pure baciarci i gomiti, insomma, è chiaro che siamo sul filo della battuta, però l'idea è che semplicemente Air France in questo momento stia sostanzialmente trattando e stia usando semplicemente armi di trattativa per portarsi via l'Italia con un tozzo di pane, più o meno. Sono stato troppo brutale? Sta trattando come ogni investitore che debba mettere dei soldi in un'iniziativa. Va detto che nessun altro, a quanto pare, degli azionisti attuali italiani, cioè nessun altro no, perché qualcuno, Atlantia e la IMSI di Colaninno, hanno messo una parte dell'aumento di capitale, ma gli altri azionisti non sono disposti a mettere soldi e non si vedono neanche azionisti nuovi italiani che li metterebbero, quindi cioè, non è che Air France è tenuta a dover mettere soldi in una società che è stata gestita anche in questi anni di gestione privata, è stata gestita con forti perdite, quindi fa semplicemente quello che un investitore, non è un ragionamento politico, fa un calcolo razionale, economico. Certo. Grazie a Gianni Dragoni anche per oggi, e non mancheremo di risentirlo naturalmente in questa trasmissione e non solo, anche nei nostri giornali radio. Una pausa, ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo e parleremo di Stati Uniti e del rischio di bolla immobiliare. Ed eccoci di nuovo, tra poco verremo ai mercati. Oggi FTSE MIB ha chiuso in ribasso di quasi un punto percentuale, il FTSE All Share dello 0,87%, un po' peggio che nel resto d'Europa. Adesso vogliamo dedicare un approfondimento a quello che succede negli Stati Uniti. Però questa volta non parleremo di Fed, o meglio, parleremo anche di Fed, però il punto di partenza non è quello. Non è il punto di partenza il taglio agli stimoli monetari che la Fed sta mettendo in atto. Però vi è coinvolto. Un argomento che, come vi avevo detto nei giorni scorsi, avrei voluto approfondire. Che cosa è successo? Che un paio di settimane fa Richard Fisher, presidente della Federal Reserve di Dallas, aveva detto: inizio a vedere segnali, non solo nel mio distretto, ma un po' in tutto il paese, che stiamo entrando di nuovo in una bolla immobiliare. I dati dell'indice Case-Shiller diffusi ieri, uno dei due Shiller e il premio Nobel per l'economia, quello di quest'anno, segnalano una crescita dei prezzi nel corso dell'anno, dei prezzi delle case, del 12,8%, e ci sono singoli casi, singole città dove la crescita è stata fortissima. 40% a Las Vegas, 30% a Phoenix, 20% a San Francisco. Ora, visto che è esattamente dagli immobili, dalle case, che è partito, scusate l'espressione, tutto il casino nel quale ci troviamo adesso, è giusto chiederci se il presidente della Fed di Dallas, Fisher, abbia ragione, se ci sono dei presupposti appunto per una bolla. Saluto il professor Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al MIP del Politecnico di Milano. Benvenuto professore, salve, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Allora, secondo lei i presupposti ci sono? E sono legati anche alle azioni della Fed? Ma allora, a voler essere tranchant, direi che no, i presupposti non ci sono. Per quanto riguarda la prima domanda, nel seguente senso, ovviamente non mettiamo minimamente in discussione Shiller e l'indice Case-Shiller, quello che metto in discussione è che bisogna tenere conto, quando si vede questi aumenti di prezzi così grandi, che il mercato immobiliare statunitense è stato punito severamente per almeno 4 anni e forse 5. Il periodo 2007, 2011 e metà 2012 è stato un anno di repressione violenta di quel settore, per cui una quantità molto grande di potenziali buyers è rimasta fuori dal mercato perché non c'erano le condizioni. Ora che ci sia uno sviluppo forte, accelerazione veramente importante anche dei prezzi, devo dire, deve sicuramente tenerci allerta, ma non deve preoccuparci. La seconda considerazione, quella su cui lei chiedeva un pronunciamento, c'è una correlazione fra questa dinamica del mercato immobiliare e le scelte della Fed, che ha allagato il paese di liquidità, come peraltro hanno fatto tutte le banche centrali. La risposta è certo che sì. Lo stimolo della Fed a tenere bassi i tassi di interesse, in particolare il Federal Funds Rate, e poi da settembre dell'anno scorso a comprare obbligazioni del settore delle costruzioni, sicuramente ha favorito questa ripresa, che è una ripresa di prezzi ma è anche una ripresa di quantità, quindi il mercato immobiliare è ripartito, le persone e le famiglie hanno ricominciato a comprare. Non vedo tutto questo come un segnale veramente allarmante. Quindi non abbiamo da preoccuparci, dice lei, professore. Se voglio essere tranchant. Se non vuole essere tranchant, invece, visto qualche minuto ce l'abbiamo. Sì, beh, se voglio essere un momentino più analitico, io direi che occorre distinguere molto seriamente tra fenomeni regionali e fenomeni nazionali. Nel senso che delle quattro città che lei ha citato, tre sono nel sud-est e San Francisco sta vivendo una fase di espansione per la prima volta favolosa grazie alla capacità di innovazione e di innovatori che la città è in grado di attirare, e l'innovazione e gli innovatori sono disposti a pagare dei buoni prezzi. Detto questo, e per ribilanciare un pochino l'analisi, diciamo anche che la crisi del 2007 non è venuta per via della bolla immobiliare. Questo va detto con grande chiarezza. C'è stata una correlazione, ma la crisi del 2007 è venuta perché le banche e gli intermediari finanziari cartolarizzavano i mutui, e questo è quello che ha creato il problema. Li cartolarizzavano in assenza di regolamentazione. Noi sappiamo che sotto il presidente Clinton nel 1999 è stata definitivamente abolita la regolamentazione che risaliva al 1933, e questo ha scatenato gli appetiti delle banche, giustamente ha scatenato gli appetiti delle banche, le quali non regolamentate usavano i contratti immobiliari per impacchettarli, cartolarizzarli e rivenderli, i famosi derivati. Quindi quella crisi lì fu una crisi dovuta alle banche e agli intermediari finanziari, o se volete fu una crisi dovuta al Congresso degli Stati Uniti, che era tutto felice di regolamentare la produzione e la distribuzione di yogurt, ma non regolamentare le attività finanziarie. Professore, già che ce l'ho sotto mano, abbiamo ancora qualche minuto, lei mi ha detto che ha poco tempo, però insomma siamo ancora nell'ambito del consentito, le vorrei chiedere, visto che siamo sul tema dell'economia americana, un altro paio di domande. La prima riguarda proprio la Fed e l'azione della Fed. Nel suo utilizzare un attimo fa il termine allagare di liquidità, mi è sembrato di leggere una posizione, magari sbaglio io, non proprio favorevole a come la Banca Centrale Americana si sta muovendo in questo periodo. Sì, anche qui avrei da dire due cose di natura diversa. La prima è che io faccio parte di quella scuola odiata, vilipesa, e non so più che altro aggettivo usare, di cosiddetti keynesiani, i quali ritengono che quando l'economia si ferma ci sono solo quattro cose per farla ripartire veramente: la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese, le esportazioni e la spesa pubblica. Le prime tre chiaramente non funzionano sicuramente in Europa, un po' meno negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti le cose vanno meglio perché gli Stati Uniti hanno anche speso in disavanzo negli anni passati. Quindi io avrei visto assai più favorevolmente un mix di spesa pubblica in aumento e di aumento di liquidità, e credo che questo avrebbe portato risultati molto migliori. Non dimentichiamo che siamo a un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti che è il 50% più alto di quello che era nel 2007, nonostante ci sia stato un ritirarsi dalle forze di lavoro di milioni di persone. La situazione in Europa è anche peggiore perché l'Europa ovviamente si è imbarcata in questa storia veramente incredibile dell'austerità, e quindi siamo arrivati a un bel 12% di disoccupazione che ci meritiamo tutto. Allora, io avrei visto, io non condanno la Fed, però voglio dire, c'è un aspetto della storia sulla quale invece coloro che la pensano radicalmente diversamente da me hanno ragione in via di principio, ed è questa: un giorno tutta questa liquidità dovrà essere impiegata. Allora, se questa liquidità non filtra verso il settore reale, perché le banche non fanno più le banche, parlo di proporzioni ovviamente, no? Sono sempre meno intermediari fra il settore del risparmio e il settore dell'investimento, sono sempre più gestori di ricchezze e patrimoni. Allora, come rientra tutta questa liquidità? Quindi le persone tipo, diciamo, quelli che conosciamo come i falchi del Federal Open Market Committee, non sono mica gli stupidi, prima o poi questo problema del riassorbimento di liquidità si porrà, e quando si è posto a giugno, quando il presidente della Banca Centrale Statunitense Bernanke, lasciato andare a una dichiarazione del tipo è per l'autunno cominciamo a ritirare liquidità, è successo un disastro. È successo che sono caduti drammaticamente i prezzi dei titoli dei paesi emergenti, pubblici e privati, banche americane che hanno riportato dollari negli Stati Uniti, tutti convinti che sarebbe successo il finimondo, e così è andata la prima volta. La seconda come andrà? Io direi che è preoccupante questa cosa, questa liquidità deve entrare. Insomma, per essere veramente molto sintetico, hanno usato gli Stati Uniti e hanno usato gli europei quasi esclusivamente la leva della liquidità. Meglio quello che nulla, per chiarità. Però adesso sta liquidità deve essere riassorbita. Il mercato statunitense ha già detto come reagirà il giorno in cui la Fed dovesse veramente cominciare a tagliare gli acquisti di buoni tesoro e di titoli del debito del settore delle costruzioni. Ultimo punto, e le chiedo di essere sintetico, anche perché so che tra l'altro ci deve lasciare, è questa bacchettata di Washington alla Germania, che avrà visto, perché insomma so che lei si occupa anche molto di commercio internazionale, ogni tanto la chiamiamo proprio su questi temi, in merito alla famosa questione del surplus tedesco, bacchettata che segue quella della stessa Bruxelles, che gli ha detto: occhio ragazzi, così state, brutalizzo, così state danneggiando fortemente i paesi cosiddetti periferici. Come la giudica? Che è secondo lei una risposta politica? Perché se ne parlava già ieri anche allo scontro sul Datagate, o c'è qualcosa di sostanziale sotto? Ma guardi, io ritengo che qui essenzialmente ci sia un richiamo degli Stati Uniti alla Germania affinché faccia il leader europeo. Voglio dire, se noi pensiamo in termini di interessi nazionali, la Germania sta facendo i propri interessi. Che poi in Germania ci sia una classe politica che è capace di farli, gli interessi nazionali, e altrove non ci sia, questo è un altro paio di maniche. Quando gli Stati Uniti richiamano la Germania sul fatto che ha un surplus commerciale tra virgolette eccessivo, quello che dicono è: signori, provate a sacrificare questo surplus commerciale per costruire un'Europa vera, un'Europa coesa, un'Europa di cui negli ultimi 6 anni non si è parlato più, perché si è parlato di spread e di sciocchezze di questo genere. Credo che questo stiano chiedendo gli Stati Uniti, stanno chiedendo leadership in Europa, leadership che non c'è, perché insomma, non, spero nessuno dei suoi ascoltatori immagini che il signor Olli Rehn abbia gestito la crisi post-2007, perché se lo credono… No, non credo proprio, professore. Quindi, insediata la Merkel… Governo forte, socialdemocratici coinvolti, eccetera, e gli Stati Uniti chiedono che la Germania torni a fare il leader d'Europa. Questa mi sembra un'interpretazione più propria. La ringrazio, grazie al professor Fabio Sdogati per essere stato con noi e le auguro buonasera. Io a lei e a tutti gli ascoltatori. Insegna al Politecnico di Milano, lo ricordiamo ancora. Ci prendiamo una pausa, c'è la viabilità e poi ci ritroviamo naturalmente per parlare di borsa. Pregherei l'ascoltatore che sta continuando a scrivere una marea di messaggi uno dietro l'altro, tutti in maiuscolo e tutti con dentro dei caratteri incomprensibili, di smetterla di scrivere perché disturba le comunicazioni e non riesco a leggere gli SMS degli altri ascoltatori. È 349-238-6666 comunque per intervenire in diretta. Notizia appena battuta dalle agenzie. Allora, Fitch ha rivisto l'outlook, ossia le prospettive per quanto riguarda la Spagna, da negative a stabili, confermando il rating a tripla B. E qua nel frattempo poi stanno circolando tutte le intercettazioni che possiate immaginare sulla cosa della quale parlavamo ieri in apertura, l'abbiamo messa tra le notizie in breve, ma l'avete commentata un po' per tutta la trasmissione alla fine, che è la vicenda della telefonata con la quale la ministra Cancellieri, la ministra della giustizia, si interessava alla vicenda di Giulia Ligresti. I resti in carcere, anoressica, non mangiava, insomma, dopo una telefonata arrivata dai Ligresti, Cancellieri si è interessata. Perché poi, come sapete, il figlio di Anna Maria Cancellieri, Peluso, lavorava in Fondiaria SAI. Circolano queste intercettazioni, adesso una della Guardia di Finanza, Giulia Ligresti, che commenta con toni critici l'operato del figlio di Anna Maria Cancellieri, dice: sto Peluso, il figlio del ministro Cancellieri, siccome lui è talmente protetto, figurati cosa gli daranno in telecom. Testuale. Mi limito a leggere. Veniamo alla borsa, va? Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, come stai? Buonasera. Tutto bene, buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Bene, allora, Milano negativa, chiuso quasi sui minimi mi sembra di giornata, sì, no? Sì, ha pareggiato i minimi che aveva toccato già in mattinata, ha perso circa pochissimo meno di un punto percentuale. Come mai? Ma diciamo che l'andamento oggi è stato abbastanza privo di spunti particolari, il clima è stato abbastanza festivo, vista appunto la giornata. Ieri la borsa milanese sul finale aveva guadagnato un punto percentuale, facendo meglio delle altre piazze continentali. Diciamo che oggi sono scattati i realizzi, innescati anche da alcune notizie accolte negativamente dal mercato, come i conti trimestrali di alcuni big di cui abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, quindi in particolare Fiat e la controllata CNH. A proposito di CNH, appunto, un 4 punti percentuali di calo, così come Fiat, meno 3,63, dipende da questo, no? Sì, esattamente, CNH, i conti sono arrivati ieri a borsa aperta e già ieri e gli investitori avevano venduto il titolo, la società ha confermato le stime sul 2013, a differenza di quanto aveva fatto Fiat, che l'aveva tagliata il giorno prima, però comunque i risultati sono in calo, circa almeno 15% per quanto riguarda l'utile netto e meno 1,5% sul fatturato, quindi oggi il titolo ne ha risentito, ha perso il 3,96%. Fiat, che ieri aveva rimbalzato dopo il calo del giorno precedente, oggi è tornata a scendere, meno 3,63%, e anche l'azionista di riferimento Exor ha fatto segnare una performance negativa con un calo del 2,43%. Questo per quanto riguarda il gruppo Fiat. Abbiamo Monte dei Paschi che scende del 3,35%, ma insomma ieri le cose non sono andate molto bene, no? Sì, ieri il più 6,6% e questi di oggi sono presi di beneficio. Ricordiamo che ieri era salito dopo che dal documento di programmazione della Fondazione MPS era emerso che l'ente non conta di vendere goccia a goccia, quindi con una vendita dilazionata e sul mercato la propria partecipazione in MPS, ma è tutto al più di prediligere vendite a un unico soggetto, magari nell'ambito di una fusione della banca. Ovviamente questa è una prospettiva che il mercato gradisce decisamente di più, perché un'immissione graduale di titoli per una quota importante come quella che è comunque in mano la fondazione sul mercato avrebbe sicuramente depresso le quotazioni. Paolo, allora oggi le banche sono andate piuttosto male complessivamente, Mediolanum giù del 2,26, Banco Popolare 2,05, Popolare di Milano 1,98, UbiBanca 1,67, Mediobanca 1,64, Intesa San Paolo giù dello 0,05%, bene invece Unicredit un più 0,18. E tutto questo nonostante la pressione sui titoli di Stato oggi si sia allentata, c'è stato un calo dello spread e anche dei rendimenti dei decennali. C'è un motivo particolare per il quale sono scese oggi? Ma sì, in effetti il rendimento è sceso e lo spread anche. Lo spread adesso ha chiuso circa 243 punti base, comunque in lieve calo rispetto a ieri, e questo è fondamentalmente il fattore che ha sostenuto le due principali big, quindi Unicredit e Intesa San Paolo. Quanto alle banche di media dimensione, quindi alle altre banche, su Monte dei Paschi c'è il fattore realizzi di cui abbiamo detto, e effettivamente anche sugli altri titoli avevano guadagnato molto nelle ultime sedute, spinte a volte da fattori particolari e in generale da un rimbalzo dopo i cali precedenti, e oggi in una giornata comunque complessivamente negativa hanno seguito di fatto l'andamento dell'indice, e quindi chiudendo quasi tutti in rosso. Veniamo alle note positive di oggi, partendo da Saipem, più 1,33. Sì, per Saipem è la quinta seduta consecutiva di rialzo, dopo, quindi tutta la settimana in rialzo, dopo l'annuncio dei conti trimestrali, che ricordiamo erano stati in linea con le attese, ma appunto non avevano riservato sorprese negative, a differenza di quanto era avvenuto nei mesi precedenti. Saipem aveva fatto due profit warning, quindi il mercato comunque ha apprezzato il ritorno a una normalità operativa, in particolare ha apprezzato che non ci sono state svalutazioni nel portafoglio di contratti, che conferma quindi la solidità e l'affidabilità del business per i mesi a venire. Ebbene anche Mediaset. Sì, in questo caso continuano i segnali, diciamo, incoraggianti sul fronte della pubblicità, e ieri sono arrivati da Fiat, che ha annunciato un andamento positivo della raccolta pubblicitaria, un recupero nel mese di settembre, e il trend che è continuato anche in ottobre, e ovviamente ha beneficiato di queste indicazioni anche Mediaset, che da parte sua aveva annunciato recuperi analoghi per quanto riguarda i mesi scorsi, quindi il titolo ha guadagnato lo 0,81%. Di Unicredit abbiamo detto più 0,18%, A2A in perfetto pareggio, Tenaris più 0,17%, non ci sono motivi particolari? No, in questo caso non c'è. No, no, ma lo dico semplicemente perché oggi i titoli in positivo sul listino principale sono solamente 5. Era andata abbastanza bene Telecom Italia, poi in calo di mezzo punto percentuale. Sì, era rimasta in territorio positivo per gran parte della seduta, scivolando in calo di mezzo punto sul finale. In questo caso comunque il titolo che ha fatto meglio dell'indice è stato sostenuto in generale dal buon andamento del settore europeo delle TLC, che è uno dei pochi positivi, più 0,86 a livello di comparto, e a trainare qui il gruppo Vodafone, che a Londra è salito del 3,6% sulle voci di una possibile offerta in arrivo da parte dell'americana AT&T, che creerebbe ovviamente un colosso delle telecomunicazioni a livello mondiale. Infine ci chiedete sempre i migliori e peggiori sul listino normale, non su quello principale, su quello complessivo. Allora Renault giù del 6,61%, la Roma Calcio meno 5,11%, nonostante la vittoria di ieri, ma insomma aveva preso parecchio nei giorni scorsi, CNH, Fiat, Monte dei Paschi. Mentre invece tra i titoli migliori, oltre a Bioera che guadagna il 6,78%, Alcatel più 5,4%, Poligrafici Editoriale più 4,7%, c'è Enertronic più 8,75%. Sì, il titolo di Nertronica, che è una società attiva nelle energie rinnovabili, festeggia la commessa vinta e annunciata ieri. Si tratta del contratto per la realizzazione di due parchi fotovoltaici in Sudafrica per un valore di 170 milioni, una commessa molto importante per il business della società, tanto che ieri il titolo era stato sospeso in attesa dell'annuncio di questo contratto. Oggi le quotazioni ne hanno beneficiato, facendo segnare appunto la migliore prestazione dell'intero listino. Grazie a Paolo Paronetto e Radio Cori Il Sole 24 Ore, grazie come sempre ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore e buonasera. Noi adesso ci prendiamo una pausa, come sempre c'è il giornale radio e poi parleremo ancora, già l'abbiamo accennato prima, di Germania e poi di tasse. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. Molta economia internazionale, ma in questo caso economia internazionale che ci riguarda, anzi direi economia nazionale, visto che parliamo della Banca Centrale Europea. Era prevista per questa settimana, ma non è ancora arrivata e quindi immaginiamo che arrivi la prossima. O c'è chi dice nel momento nel quale si arriverà ad un accordo definitivo sul governo, la sentenza da parte della Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe sulla legittimità delle politiche monetarie della Banca Centrale Europea, intendiamo genericamente politiche monetarie, in realtà intendiamo gli acquisti di titoli di Stato. Saluto Mario Seminerio, che è autore del blog fastidio.net e anche di libri, se non erro La cura letale era il titolo, se non sbaglio, Seminerio, salve. Sì, esatto, buonasera. Buonasera, La cura letale. Allora, innanzitutto, molto semplicemente, che cosa dobbiamo aspettarci, secondo lei, da questa Corte Costituzionale tedesca? Ma io sono tra quanti pensano così un po' epidermicamente che alla fine anche i tedeschi siano affetti da realismo, per cui la Corte aspetterà la fine dei negoziati per la costituzione del governo di grande coalizione, dopodiché probabilmente ci saranno alcuni paletti di carattere solenne e vedremo anche quanto operativi, perché chiaramente l'ultimo problema di cui avrebbe bisogno l'Eurozona è avere praticamente una Germania ulteriormente legata laddove si dovesse decidere di procedere in una certa direzione, anche se però in questo momento c'è un dibattito molto vivo, molto presente, anche se non sempre alla superficie, diciamo, dell'attualità stretta, su come fare evolvere questa Eurozona, quindi tra una completa riscrittura dei trattati, questa ad esempio è la linea del ministro delle finanze tedesco Schäuble, oppure inserire delle clausole all'interno della legislazione comunitaria vigente e tentare per certi aspetti di forzarla. Queste sono questioni estremamente importanti che condizioneranno il divenire dell'Eurozona e tutte le strutture comunitarie e anche la nostra vita e l'evoluzione di questa crisi. Naturalmente, allora, naturalmente siamo qua in attesa di quello che deciderà la Corte Costituzionale tedesca. Come ci diceva lei, probabilmente metterà dei paletti, insomma, vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo però ci sono altre questioni che io vorrei commentare con lei, e la prima riguarda i dati di ieri. Ne parlavamo ieri, lo ricorderete, i dati sull'inflazione, i dati arrivati da Eurostat che indicano un'inflazione allo 0,7% in crescita, naturalmente allo 0,7% nell'Eurozona, una crescita in netto calo rispetto a settembre quando era all'1,1%. Allora, è un segnale che tradizionalmente interpretiamo, no? Come il momento nel quale la BCE, per così dire, la dico sempre molto brutalmente anche per farmi capire, insomma, potrebbe allargare i cordoni della borsa, insomma, sostanzialmente tagliare i tassi, perché la BCE ha da mandato di mantenere l'inflazione sotto il 2%. Ora, succede questo, che ieri, anzi proprio l'altro ieri, il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, dice: la politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti è eccessivamente espansiva. Seminerio. Dunque, intanto il dato dell'inflazione mi pare preoccupante, perché è vero che il dato cosiddetto headline, cioè il dato che considera l'intero paniere dei beni e dei servizi che entrano nell'inflazione, è stato condizionato da un forte calo della voce energia, quindi carburanti e combustibili. Questo di per sé viene considerato un qualcosa di transitorio. La stessa Banca Centrale Europea, per ieri, per voce di una portavoce, ha precisato che questi sono movimenti temporanei. Però di solito gli economisti guardano il cosiddetto tasso di inflazione core, quindi si prende l'inflazione e la si depura dalle variazioni di prezzo delle componenti più volatili, che sono alimentari ed energia. Ebbene, facendo questa operazione, l'inflazione core in Eurozona a ottobre ha un tendenziale che è passato dall'1 allo 0,8%. Cosa vuol dire questo? Che è in atto una oggettiva tendenza disinflazionistica. Ci sono dubbi, almeno li ho io, che però non sono nessuno, circa il fatto che questi fattori e fenomeni siano realmente temporanei o non siano invece frutto di qualcos'altro, frutto della crisi specifica dell'Eurozona, che comunque è una deflazione di debito, quindi per natura tende a produrre disinflazione e deflazione, ma anche frutto di altre situazioni, per esempio del forte deprezzamento dello yen, perché è un modo come un altro per il Giappone per esportare deflazione. Oppure della situazione cinese, anche la Cina esporta deflazione perché ha una enorme capacità produttiva inutilizzata. Quindi c'è tutta una serie di elementi che congiurano per creare pressione disinflazionistica. Per quanto riguarda invece la posizione di Weidmann, vabbè, diciamo che non è nulla di realmente innovativo, però io non so da cosa Weidmann ricavi l'inferenza che la politica monetaria è troppo espansiva. Chiaramente ci saranno dei dati circostanziati prodotti dalla Bundesbank, però bisogna considerare che quando un'area ha un tasso di inflazione che scende in una maniera così vistosa e probabilmente non su base temporanea, vuol dire che la politica monetaria non è poi così espansiva e vuol dire che probabilmente è necessario agire per altre vie. Quali sono queste altre vie? Spetta alla fantasia tecnica e soprattutto politica di Mario Draghi, visto che la Banca Centrale Europea ha dei limiti oggettivi, non può fare easing quantitativo, perché se facesse easing quantitativo dovrebbe comprare una serie di titoli, un paniere di titoli dell'Eurozona, non solo i nostri BTP o i bonus spagnoli, dovrebbe comprare anche titoli tedeschi, francesi, pro rata, e quindi questo è un altro problema operativo. Quindi c'è tutta una serie di criticità. Ripeto, il problema di una disinflazione che rischia di diventare deflazione è che i paesi che hanno il rapporto debito-PIL più alto e comunque tutte le entità pubbliche e private che sono maggiormente indebitate vanno in grave affanno. E quindi questa è una eventualità che bisogna assolutamente scongiurare con ogni mezzo. Grazie a Mario Seminerio, blogger, lo trovate su fastidio.net, fastidio scritto col PH, fastidio.net, e autore della Cura Letale, per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Viabilità e poi parliamo di tasse. Hey. Ed eccoci dunque a parlare di tasse. 349-238-6666 per i vostri sms. Certo, non vogliamo ammorbarvi anche oggi con giorno di festa, però insomma Confcommercio mi tira fuori questi dati che sono terrificanti sulla Tari, la nuova tariffa sui rifiuti. Pierpaolo Masciocchi, responsabile ambiente e utilities di Confcommercio, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, come sta? Tutto bene? Dire con questi dati, sinceramente, ma anche noi abbiamo un senta, po' fino al 680% di aumenti. Ma sai qual è il problema? Le nostre non sono proiezioni, quindi ipotesi che noi abbiamo elaborato, sono semplicemente una fotografia di una situazione, poi avrò modo di spiegarlo, diciamo in qualche misura statistica, purtroppo è una situazione che si è già registrata sul territorio, in alcuni territori abbiamo raccolto tutte le fatture, le bollette delle imprese e abbiamo potuto quindi fare questa misurazione, quindi ahimè non è una proiezione come dire soggetta anche a interpretazione, ma è una fotografia. Ma perché? Perché c'è questo aumento? Guardi, così forte? Allora, il problema è la situazione è estremamente complessa. Io cercherò di banalizzarla per rendere un po' così l'idea. Allora, una premessa, innanzitutto in Italia come dire siamo un paese della complicazione. Ad oggi dico solo questa notizia: vigono 6 regimi di prelievo diversi a fronte dello stesso rifiuto prodotto. Io alcuni... le dico che nel frattempo io qua in studio Gianni Trovati, del Sole 24 Ore, che annuisce, dice, cioè quasi con aria disperata, perché mette le mani in mezzo a queste cose tutti i giorni, e quindi però parleremo anche con lui. Dica, allora, esistono questi sei regimi di prelievo per ogni singolo per ogni tipo di rifiuto, no? No, per ogni tipo, cioè, adesso non esageriamo. In Italia alcuni comuni applicano la TARSU, altri comuni applicano la TIA 1, altri la TIA 2, altri la TARES. Dal 1 di gennaio applicheremo la TARI e poi si arriverà alla TARP, che io dico, al di là degli acronimi, comunque stiamo parlando di tasse e purtroppo... Ma mi dica come si arriva a questo 680%. Come si arriva a questo 680%? Allora, parto dalla premessa. Ad oggi l'83% dei comuni oggi sono a TARSU. TARSU significa la tassa sui rifiuti solidi urbani. Bene, il restante è TIA 1, TIA 2 o è un piccola percentuale, l'1,8 a TARES. Allora, noi abbiamo avuto modo di registrare che quei comuni che sono passati da TARSU a TIA, quel 13% dei comuni, quindi sono dati, appunto, dicevo, statistici, hanno subito aumenti del tipo che noi abbiamo evidenziato. Questi sono dati, appunto, ricavabili semplicemente dalle bollette delle imprese, e noi ne abbiamo dato conto nello studio che abbiamo fatto. Sì. Quindi abbiamo preso proprio delle bollette di imprese, determinate imprese, e abbiamo visto quando sono passate da tassa a tariffa cosa è successo. Bene, perché si porrà nel 2014? Perché la Tari fonda il proprio presupposto su un regolamento, il DPR 158, che è lo stesso che è alla base della TIA. Quindi, siccome l'83% dei comuni dal 1 gennaio 2014 dovrà passare a Tari, è come se passasse a TIA, perché il regolamento, il DPR 158, è lo stesso e i coefficienti di questo decreto sono gli stessi. Allora, in linea di massima ho capito, anche se la spiegazione aveva un che del compianto Ugo Tognazzi in Amici miei, però insomma non entro nel dettaglio. Gianni Trovati, allora, più andiamo avanti, più ne scopriamo, mi sembra di capire. Sì, buonasera. La morale, faccio la morale della favola delle sei tasse, tariffe, tributi sui rifiuti che venivano citati prima. La morale della favola è che diciamo, gli aumenti sono determinati dal principio in base al quale il costo del servizio deve essere interamente pagato dalla bolletta. Principio tanto giusto in teoria che appunto giustamente veniva citato questo famoso DPR 158, è del 1999 però. Allora, noi abbiamo questo obbligo che è peraltro un principio europeo dal 1997, legge Ronchi, siamo nel 2013, non l'abbiamo mai applicato. Poi a un certo punto, dopo 15 anni di sonno, ci siamo svegliati e abbiamo detto: ma c'è il principio europeo, bisogna coprire tutti i costi del servizio, facciamolo subito, immediatamente. Ovvio che così facendo si producono gli aumenti che vengono non stimati ma riportati, calcolati dalla Confcommercio. Altrettanto ovvio che un passaggio del 6-700% su imprese che sono già gravate, l'IMU è triplicata per loro, i negozi, parliamo soprattutto di negozi, bar, ristoranti, fiorai, cioè quelli che producono più rifiuti, è ovvio che un passaggio del 6-700% in un anno non è sopportabile. Quindi la TARES, che era nata il primo gennaio 2013, anzi era entrata in vigore il primo gennaio 2013, in realtà non è mai entrata in vigore. Abbiamo fatto in quest'anno 7-8 leggi che la cambiavano, la modificavano, non ci abbiamo capito più niente. Alla fine abbiamo alzato le mani, dice vabbè, per quest'anno rimaniamo ai regimi dell'anno scorso. Ovviamente veniva detto giustamente, il problema si ripropone l'anno prossimo, quindi l'anno prossimo entrerà in vigore la Tari, ci sarà un caos, ci saranno 6, 7, 8, 9 riforme della Tari in corso d'anno, poi arriveremo verso ottobre, alzeremo le mani e diremo no, non è possibile, ritorniamo, riesumiamo per l'ennesima volta la Tarsu. Qual è il problema? Che qui, in questo modo, da un lato si premia chi alla fine, amministrazione locale, eccetera, se ne frega di tutte queste novità, dice io non faccio niente, tanto prima o poi la smettono. E teorica e tendenzialmente ha ragione, non si raggiunge l'obiettivo e si distribuiscono questi aumenti che venivano citati prima un po' a casaccio, per cui se tu sei fortunato e hai il negozio di fiori nel comune che se n'è fregato, paghi più o meno come l'anno scorso, un po' sono aumentati perché poi i comuni stanno male, eccetera. Se tu invece hai la sfortuna che il tuo sindaco segue le norme, ti applica l'aumento del 6-700%. Certo, tra l'altro Masciocchi, leggevo che è una tariffa che non tiene conto della stagionalità economica, cioè non so, se uno ha uno stabilimento balneare paga sempre la stessa cifra per tutto l'anno? Ma allora, in teoria, no, come funziona? In teoria vi è una norma adesso nella legge di stabilità che prevede che il comune possa introdurre agevolazioni proprio in virtù della stagionalità. Il problema è sempre lì, ci sarà il comune, diciamo così, più virtuoso che lo potrà fare, altri comuni che non lo vorranno fare per esigenze di cassa. Oggi è un problema enorme perché la stagionalità è evidente. Anche in, diciamo, accoglimento del principio che lei citava prima, il cui inquina paga, è evidente che lo stagionale che lavora se ne inquina un po' di meno, certo, di quello che lavora 12 mesi. Masciocchi, ora devo interrompere perché dobbiamo chiudere qua la trasmissione, siamo in chiusura. A chi scrive via SMS dite perché con il dollaro in caduta e il barile in discesa il prezzo della benzina non cala? Ma come non cala? Sono arrivati ieri i dati sull'inflazione, è scesa il 5,5% in un anno. Insomma, un pochino cala. Grazie Paolo Corleoni in regia, Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Alessandro in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, a Gianni Trovati naturalmente. Ci si sente lunedì alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.